Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ritrovato senza vita il turista tedesco disperso in mare ieri a Grado, si era immerso per una nuotata al largo della spiaggia Costa Azzurra e non era tornato a riva. Il corpo è stato trovato all'imbocco del porto di Grado. Fine vita respinto dal tribunale di Trieste il ricorso contro la Sugi della paziente 55enne affetta da sclerosi multipla per stabilire le modalità di esecuzione del suicidio assistito. Alla centrale A2A di Monfalcone non si produrrà più energia da carbone. Il ministro dell'Ambiente ha comunicato di aver rivisto il piano di massimizzazione energetica del suo predecessore. Intesa sul potenziamento delle misure di sicurezza sul trasporto pubblico tra sindacati, arriva Udine, forze di polizia e prefetto. Nel corso del tavolo convocato a Udine a seguito delle aggressioni sia verbali che fisiche ad autisti e anche a passeggeri. 4 ore di sciopero domani dei metalmeccanici, la protesta per aprire un confronto con governo e imprese per affrontare la transizione ecologica e digitale rigenerando la produzione metalmeccanica. Buongiorno, ben ritrovati da Livia Liberatore e Francesca Vigori. Si sono concluse purtroppo con esito funesto a Grado le ricerche del turista tedesco scomparso durante una nuotata nella tarda mattinata di ieri. Il suo corpo privo di vita è stato trovato poco dopo le 9:30 di questa mattina nel canale di accesso al porto dell'Isola d'Oro. Il 61enne si era immerso dalla spiaggia Costa Azzurra intenzionato a compiere una nuotata al largo. Non vedendolo rientrare, la moglie aveva allertato i soccorsi. Le ricerche avevano coinvolto guardia costiera, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e personale della GIT, con l'impiego di un elicottero, motovedette, imbarcazioni da laguna e moto d'acqua. Le attività di ricerca condotte inizialmente lungo il litorale di Grado, sia in mare che in spiaggia, si erano allargate anche al mare aperto, senza trascurare comunque le acque interne e il canale di accesso al porto di Grado, pattugliate più e più volte. E proprio nel canale di accesso in porto, zona controllata anche questa mattina dai mezzi della Guardia Costiera, è stato ritrovato e recuperato il corpo dello sfortunato turista. Sono in corso indagini per far luce sulle cause della tragedia. Ora il tema del suicidio medicalmente assistito. Il Tribunale di Trieste si è pronunciato sul ricorso della 55enne triestina affetta da sclerosi multipla che aveva chiesto di ordinare ad Asugi di stabilire le modalità di esecuzione del suo fine vita. Il Tribunale non ha accolto tale richiesta, stabilendo che per il momento Asugi debba unicamente accertare se la signora sia affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili, se la sua scelta sia capace, libera ed informata. 30 giorni di tempo per valutare se sussistano le condizioni per ottenere il suicidio medicalmente assistito. Il Tribunale di Trieste impone tempi certi e relativamente stretti alla Asugi sul caso della donna difesa dall'Associazione Luca Coscioni, che l'anno scorso aveva chiesto all'azienda sanitaria Giuliani Sontina di avviare l'iter senza però ottenere una risposta chiarificatrice. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai 30 stabiliti, Asugi dovrà pagare 500 euro di multa. L'azienda dovrà verificare se sussistono 3 condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale per dare il via libera alla procedura, cioè se la signora affetta da sclerosi multipla è mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, se la sua patologia è irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili ed è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Eseguiremo l'ordinanza del giudice, commenta il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana. Rimane un dubbio sul passo successivo. Secondo l'interpretazione della sentenza da parte di Asugi, bisogna ritornare dal comitato etico regionale, attualmente scaduto e in fase di rinnovo. Secondo l'interpretazione dell'associazione Coscioni, quel comitato etico è stato già interpellato dalla stessa Asugi e si è già espresso. Sarebbe dunque il comitato etico territoriale dell'azienda a dover disporre il da farsi. In caso di ulteriori ritardi siamo disposti a tornare dal giudice, dice la segretaria dell'associazione Coscioni, Filomena Gallo, anche perché, aggiunge, le condizioni della donna che ha presentato il ricorso stanno peggiorando. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Finita l'emergenza del gas, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha chiesto di fermare la produzione di energia dalla centrale a carbone di Monfalcone. Il sindaco dice si chiude un capitolo di grave inquinamento. È la fine di un'epoca molto attesa a Monfalcone. Nella centrale A2A della città non si produrrà più energia da carbone. Lo ha comunicato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha rivisto il piano di massimizzazione energetica nato con l'emergenza l'anno scorso. Le politiche di decarbonizzazione portate avanti dal governo, ha fatto sapere il ministro, hanno permesso di raggiungere in anticipo gli obiettivi di risparmio di gas. Non serve più, insomma, produrre energia da olio combustibile e da carbone, un'operazione molto inquinante e dannosa per l'ambiente. Le centrali a carbone italiane andranno avanti al minimo, tranne appunto a Monfalcone, unica eccezione, dove la produzione sarà fermata del tutto. La centrale, situata in centro città, aveva ripreso la produzione a causa della guerra in Ucraina e della conseguente necessità di rivedere le fonti di approvvigionamento energetico. A febbraio era stato poi raggiunto l'accordo tra A2A e la Regione Friuli Venezia Giulia per un piano di dismissione della produzione di carbone, che non sarebbe stato decisivo però senza l'assenso del Ministero, ma che ha costituito una delle tappe della strategia silenziosa portata avanti da Comune, Regione e vertici del Ministero per una chiusura definitiva. Che le cose sarebbero andate in questa direzione era nell'aria da qualche tempo. Da 3 settimane le altre centrali erano ripartite, Monfalcone no. Poi ieri è arrivata la conferma ufficiale con l'atto del Ministero e la soddisfazione del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. È una notizia molto importante, per la quale ringrazio veramente di cuore l'impegno che ogni giorno ci ha messo il viceministro Gava e i suoi collaboratori. Questo risultato è il figlio della grande attenzione che è stata posta sulla questione dall'amministrazione e dalla grande condivisione sul percorso che le istituzioni hanno garantito. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incendio ha distrutto il tetto in legno di una casa di 3 piani a Ene Monzo. Le persone che abitano nella casa, ora inagibile, 2 donne di 82-84 anni, sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente senza riportare conseguenze. Hanno trascorso la notte da familiari. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con squadre provenienti da Tolmezzo, Rigolato e Cercivento e con il supporto dell'autoscala. Stando a una prima ipotesi, l'incendio sarebbe stato provocato da un fulmine. Oggi cominciano i saldi estivi in regione, che proseguiranno fino al 30 settembre. Per incentivare il commercio, previsti in diverse città anche eventi serali con negozi aperti e iniziative culturali. A Trieste la notte dei saldi sarà quella di sabato, con negozi aperti fino a tardi. A Monfalcone stasera, domani e sabato i negozi resteranno aperti fino alle 22:30. A Pordenone la notte dei saldi coincide con il primo giovedì sotto le stelle, con negozi aperti fino alle 23, aperti fino alle 23 anche i musei civici d'arte di Palazzo Ricchieri, di Storia Naturale, la Galleria Bertoia e il PAF. Previsti anche concerti diffusi nelle strade e piazze e nei locali sul ritmo del blues, dalle 18 fino a notte fonda. Ma sentiamo com'è andata la prima mattina di sconti a Pordenone. Acquisti per il momento non abbiamo pensato di farne. Aspettiamo qualche giorno. Partenza a rilento nel primo giorno di saldi. Ancora pochi clienti nei negozi e i commercianti confidano nel fine settimana. L'attesa è che ci sia un risultato positivo, visto che comunque la stagione non è stata al massimo. Noi speriamo che vada tutto bene, insomma, che ci sia un interesse. Al momento no. Così è così. I saldi sono dal 10% fino al 50%. Come è andata fino adesso, signora? Un po' a rilento ancora? Lento, ma le cose comunque, dai, non sono disastrose. Stiamo cercando qualcosa per lui. Gli acquisti. Abbiamo comprato noi, non c'erano saldi. No. Non c'è il pienone nemmeno nei centri commerciali. La mattinata è stata molto lenta, con pochi ingressi, essendo un giorno infrasettimanale. Ci aspettiamo magari più ingressi dalle 17 in poi. A Pordenone questa sera negozi aperti fino alle 23 per il primo giovedì sotto le stelle e blues festival nelle strade del centro. Federica Morello è presidente di Federmoda Pordenone. Questa sera avremo le aperture serali, sarà la prima, e proprio con la prima giornata di saldi, quindi ci aspettiamo una bella affluenza dei clienti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A poche ore di distanza dalla cerimonia di consegna prevista per questa mattina nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, Explora Journeys ha comunicato che la consegna della sua prima nave è stata posticipata. Fincantieri S.p.A. e la divisione crociere del gruppo MSC hanno concordato di apportare ulteriori migliorie alla nave da crociera del nuovo marchio di lusso del gruppo Explora Journeys. E hanno fatto sapere ieri sera le due aziende, aggiungendo che purtroppo i lavori richiederanno tempi che prolungheranno di qualche settimana la permanenza dell'unità presso il cantiere. A causa di ciò l'azienda, insieme alla società armatrice, ha preso la decisione di rimandare a nuova data la cerimonia. Da noi contattata Fincantieri ha fatto sapere di non voler commentare ulteriormente il rinvio. Explora Journeys è dunque il nuovo marchio crocieristico di lusso controllato dal gruppo MSC. Explora prima avrebbe dovuto salpare per la crociera inaugurale da Southampton in Inghilterra il 17 luglio. Dopo Explora prima è attesa entro l'estate del 2024 la consegna della prima unità gemella, Explora seconda, attualmente in costruzione nello stabilimento di Sestri Ponente. L'ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Le unità, che dispongono ciascuna di 461 suite, sono destinate a un segmento di ospiti particolarmente esigenti, che prediligono viaggi ricercati alla scoperta di destinazioni esclusive sia classiche che esotiche. Alle 12.41 diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è poco nuvoloso sulla costa, più coperto sui monti. Le temperature a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24. A Udine 25 gradi, a Gorizia 26, a Pordenone 24 gradi. A Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio 18, a Sappada 14 gradi. A Piancavallo e Forni di Sopra 16. Sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 12 gradi, a Lignano 25 gradi, a Grado 26, la temperatura del mare nelle due località è di 26 gradi. Vediamo le previsioni. Nelle prossime ore il cielo sarà da variabile a nuvoloso, saranno probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio sera. Sulla costa soffierà vento moderato da nord-est. Per domani cielo in genere poco nuvoloso, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano in montagna al confine con il Cadore. Sulla costa soffierà borino di primo mattino, poi brezza. Nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza riunito in prefettura Udine. All'ordine del giorno la sicurezza sui mezzi pubblici dopo l'ennesima aggressione della settimana scorsa avvenuta su una corriera all'autostazione del capoluogo friulano. Una intesa sul potenziamento delle misure di sicurezza sul trasporto pubblico è stato preso tra sindacati a Riva Udine, le varie forze di polizia, il prefetto, nel corso del tavolo convocato a Udine su richiesta dei sindacati, dopo le continue aggressioni sia verbali che fisiche che si susseguono ai danni del personale viaggiante e anche nei confronti dei passeggeri. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Un problema complesso come tanti altri, perché a volte vedi anche il coinvolgimento spesso di minori, sono quelli su cui si è concentrata anche oggi maggiore attenzione. Con l'azienda abbiamo concordato e quindi sicuramente sarà anche migliorato il sistema delle videocamere anche sulle tratte extraurbane, che è in corso di implementazione, possibilità di proteggere maggiormente gli autisti all'interno dell'abitacolo e poi delle regole di ingaggio che adesso con la collaborazione delle forze dell'ordine verrà definita anche con il supporto dell'azienda. Un problema questo più volte sollevato e segnalato dai rappresentanti dei lavoratori. Bisogna agire sulle cause di questi fenomeni, dicono i sindacati. Sono necessari anche dei corsi di formazione per i dipendenti per proteggersi da certe situazioni. Patrizia Zambon, segretaria regionale UIL Trasporti. È stato avviato un tavolo di confronto nel quale sia la prefettura che la questura e le forze dell'ordine si sono impegnate a collaborare con le organizzazioni sindacali e con Arriva Udine per redare un protocollo, quantomeno dei punti, per aiutare gli autisti a intervenire o quantomeno a sanare delle possibili aggressioni. Un'avvertenza che trova in prima linea anche Arriva Udine, che da subito implementerà le telecamere sui mezzi. Emilio Corradazza, direttore esercizio Arriva Udine. Abbiamo cominciato già ad avere rapporti col prefetto più di un mese fa, proprio per segnalare queste situazioni che noi conosciamo molto bene, l'azienda sta cercando di intervenire in tutti i modi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale alle autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti ha firmato il decreto di costituzione presso la Direzione Centrale Autonomie Locali del Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale. Il comitato svolge le funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale, ha ricordato l'assessore, e promuove lo sviluppo dell'uniformità operativa. Si tratta, ha evidenziato l'esponente della Giunta regionale, di uno strumento fondamentale per la condivisione di una gestione omogenea ed efficiente dei corpi della Polizia Comunale del Friuli Venezia Giulia. Il comitato è composto dal direttore del Servizio di Polizia Locale e Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, Gianluca Albertazzi, che ricoprirà il ruolo di presidente, dal comandante del Corpo di Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente, dai comandanti delle polizie locali degli ex capoluoghi di provincia, Marco Muzzatti per Gorizia, Eros De Longo per Udine, Maurizio Zorzetto per Pordenone, dal comandante del Corpo di Polizia Locale di Monfalcone, Rudi Bagatto, dai comandanti delle polizie locali dei comuni ad alto flusso turistico, Alessandro Bortoluzzi per Lignano e Mario Bressan per Grado, e del comitato fanno parte anche 4 comandanti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali. Sciopero nazionale domani del settore metalmeccanico per il rilancio industriale, l'occupazione e gli investimenti per la transizione sostenibile. I sindacati CGL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia hanno spiegato le ragioni della protesta stamattina in una conferenza stampa. Sentiamo Fabiano Venuti, referente per l'Alto Friuli della FIM CISL. I motivi che hanno spinto FIM, FIOM e UIL a livello nazionale a promuovere questa iniziativa di protesta, che si concretizza con 4 ore di sciopero della giornata di domani, si trovano nella necessità di avere risposte da parte del governo in una mancanza di politiche industriali che è assente da anni, da decenni, e che sta portando di conseguenza un impoverimento del tessuto industriale e produttivo italiano, di cui buona parte è anche presente nel territorio dell'ex provincia di Udine. Qual è la situazione sul nostro territorio? Ma per quanto riguarda la provincia di Udine, in Alto Friuli, la situazione è a macchia di leopardo. Ci sono aziende che stanno investendo, ma ci sono aziende che fanno i conti anche con la recessione dell'economia tedesca, pertanto si vede una frenata per quanto riguarda tutto l'indotto legato all'edilizia. Ci sono problematiche che riguardano anche la transizione ecologica, che impatta sull'industria automobilistica, con aziende che si occupano di componentistica che si vedono insomma frenare le commesse. A livello regionale poi abbiamo 2 vertenze che stanno attirando l'attenzione a livello nazionale, sono quella che coinvolge i lavoratori della Wärtsilä e dell'Electrolux di Porcia. Vale oltre 12 milioni di euro l'assestamento di bilancio del comune di Trieste, presentato stamani in consiglio comunale. Tra le voci principali, lo sviluppo dell'interporto e la promozione della cultura e del turismo. Dall'aumento di capitale in Interporto Trieste S.p.A. agli adeguamenti contrattuali dei dipendenti, dal sostegno alla cultura e al sociale al riequilibrio del piano economico e finanziario del centro congressi penalizzato dal Covid, fino all'acquisto delle nuove divise per la polizia locale. Vale complessivamente 12 milioni e 300 mila euro l'assestamento di bilancio che l'amministrazione comunale di Trieste porterà in aula lunedì 10 luglio e che è stata presentata dall'assessore Everest Bertoli. Si parte appunto dal 1 milione di euro destinato all'aumento di capitale in Interporto, finanziato con avanzo vincolato, per avviare la fase 2 del progetto BAT. Il comune di Trieste è disponibile anche ad acquisire eventualmente ulteriori quote di altri soci. 3 milioni 500 mila euro di avanzo accantonato serviranno poi a finanziare gli adeguamenti contrattuali dei dipendenti comunali, a eccezione dei dirigenti, per il triennio. Infine 5 milioni di avanzo libero saranno suddivisi, fra l'altro, fra il sostegno al sociale e alla cultura, la manutenzione del verde pubblico e il riequilibrio del PEF del centro congressi. Inseriti nel documento unico di programmazione anche i lavori di adeguamento dell'impianto fanghi e biogas del depuratore di Servola, il cui costo, quasi 1 milione di euro, sarà interamente a carico del gestore del servizio idrico integrato. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, i mondiali di pallanuoto, definito il 7 rosa per il Giappone, tra le convocate anche la capitana della pallanuoto Trieste, Lucrezia Liss-Cergol. I campionati mondiali di pallanuoto femminile si svolgeranno dal 16 al 28 luglio e l'Italia esordirà con l'Argentina. L'audace sailing team di Trieste ha vinto la Foiling Sumouth Challenge di Malcesine con la sua nuova barca superleggera in fibra di lino ad alte prestazioni by Flying Lina, varata a giugno 2023. Si trattava della prima partecipazione della squadra velica dell'Università di Trieste a questa competizione dedicata alla classe velica MOT, imbarcazione in monoposto di piccole dimensioni che, mantenendo lo scafo a circa 60 cm dal pelo dell'acqua, volano letteralmente sulla superficie a grande velocità. By Flying Lina ha vinto su altri 10 team di studenti italiani internazionali, distinguendosi non solo in acqua ma in particolare nella valutazione del progetto dello scafo realizzato in materiali ecosostenibili. A caratterizzare l'imbarcazione è soprattutto l'attenzione ai materiali, oltre al lino anche le resine, per le quali è stata scelta una miscela derivata per il 30% dagli anacardi. Anche la modalità di realizzazione mostra una forte attenzione all'ambiente. Il team ha realizzato direttamente lo stampo in legno, riducendo gli sprechi. Gli spettacoli sul palco del Colle del Castello per Udine Estate. Stasera salirà la cantante, attrice, autrice e artista Drusilla Foer, che porterà in scena in versione aggiornata ed estiva il suo recital Eleganzissima, un viaggio tra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta tra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune. Inizio spettacolo alle 21:30. Ed è tutto per ora da Livia Liberatore Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Tommaso Vinoni, Edoardo Veglia in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Ancora un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.